ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. Arrivai una sera col Gerbido mentre gli ugonotti stavano pregando. Non che pronunciassero parole e stessero a mani giunte o inginocchiati, stavano ritti in fila nella vigna, gli uomini da una parte e le donne dall'altra, e in fondo il vecchio Ezechiele con la barba sul petto. Guardavano diritto davanti a sé, con le mani strette a pugno che pendevano dalle lunghe braccia nodose. Ma benché sembrassero assorti, non perdevano la cognizione di quel che li circondava, e Tobia allungò una mano e tolse un bruco da una vite, Rachele con la suola chiodata schiacciò una lumaca, e lo stesso Ezechiele si tolse tutto a un tratto il cappello per spaventare i passeri scesi sul frumento. Poi intonarono un salmo. Non ne ricordavano le parole, ma soltanto l'aria, e neanche quella bene, e spesso qualcuno stonava, o forse tutti stonavano sempre, ma non smettevano mai. E finita una strofa ne attaccavano un'altra, sempre senza pronunciare le parole. Mi sentii tirare per un braccio, e c'era il piccolo Esaù che mi faceva segno di star zitto e di venir con lui. Esaù aveva la mia età, era l'ultimo figlio del vecchio Ezechiele. Dei suoi aveva solo l'espressione del viso dura e tesa, ma con un fondo di malizia furfantesca. Carponi per la vigna ci allontanammo, mentre lui mi diceva: «Ce n'hanno per mezz'ora, che barba! Vieni a vedere la mia tana!» La tana di Esaù era segreta. Lui ci si nascondeva perché i suoi non lo trovassero e non lo mandassero a pascolare le capre o a togliere le lumache dagli ortaggi. Vi passava intere giornate in ozio, mentre suo padre lo cercava urlando per la campagna. Esaù aveva una provvista di tabacco e appesa a una parete teneva due lunghe pipe di maiolica. Ne riempì una e volle che fumassi. Mi insegnò ad accendere e gettava grandi boccate con un'avidità che non avevo mai visto in un ragazzo. Io era la prima volta che fumavo. Mi venne subito male e smisi. Per infrancarmi, Esaù tirò fuori una bottiglia di grappa e mi versò un bicchiere che mi fece tossire e torcer le budella. Lui lo beveva come fosse acqua. «Per ubriacarmi ce ne vuole», disse. «Dove hai preso tutte queste cose che tieni nella tana?» gli chiesi. Esaù fece un gesto rampante con le dita. «Rubate!» S'era messo a capo d'una banda di ragazzi cattolici che saccheggiavano le campagne attorno e non solo spogliavano gli alberi da frutta, ma entravano anche nelle case e nei pollai e bestemmiavano più forte e più sovente perfino di Mastro Pietro Chiodo. Sapevano tutte le bestemmie cattoliche e ugonotte e se le scambiavano tra loro. «Ma faccio anche tanti altri peccati», mi spiegò. «Dico falsa testimonianza, mi dimentico di dare acqua ai fagioli, non rispetto il padre e la madre, torno a casa la sera tardi. Adesso voglio fare tutti i peccati che ci sono. Anche quelli che dicono che non sono abbastanza grande per capire». «Tutti i peccati», io gli dissi. «Anche ammazzare?» Si strinse nelle spalle. «Ammazzare adesso non mi conviene e non mi serve». «Mio zio ammazza e fa ammazzare per gusto, dicono», feci io, per avere qualcosa da parte mia da contrapporre a Esaù. Esaù sputò. «Un gusto da scemi», disse. Poi tuonò e fuori della tana prese a piovere. «A casa ti cercheranno», dissi a Esaù. A me nessuno mi cercava mai, ma vedevo che gli altri ragazzi erano sempre cercati dai genitori, specie quando veniva brutto tempo, e credevo fosse una cosa importante. «Aspettiamo qui che spiova», disse Esaù. «Intanto giocheremo a dadi». Tirò fuori i dadi e una pila di denari. Denaro io non ne avevo, così mi giocai zufoli, coltelli e fionde, e persi tutto. «Non scoraggiarti», mi disse alla fine Esaù. «Sai, io baro». Fuori tuoni e lampi e pioggia di rotta. La grotta d'Esaù s'andò allagando. Lui mise in salvo il tabacco e le altre sue cose e disse: «Diluvierà tutta notte, è meglio correre a ripararci a casa». Eravamo zuppi e infangati quando arrivammo al casolare del vecchio Ezechiele. Gli ugonotti erano seduti intorno al tavolo, alla luce d'un lumino, e cercavano di ricordarsi qualche episodio della Bibbia, badando bene a raccontarli come cose che pareva loro d'aver letto una volta, di significato e verità insicuri. «Peste e carestia!» gridò Ezechiele menando un pugno sul tavolo, che spense il lumino quando suo figlio Esaù comparve con me nel vano della porta. Io presi a battere i denti. Esaù fece spallucce. Fuori sembrava che tutti i tuoni e i fulmini si scaricassero su Col Gerbido. Mentre riaccendevano il lumino, il vecchio coi pugni alzati enumerava i peccati di suo figlio come i più nefandi che mai essere umano avesse commesso. Ma non ne conosceva che una piccola parte. La madre assentiva muta. E tutti gli altri figli, e generi, e nuore, e nipoti, ascoltavano col mento sul petto e il viso nascosto tra le mani. Esaù morsicava una mela come se quella predica non lo riguardasse. Io, tra quei tuoni e la voce di Ezechiele, tremavo come un giunco. La sgridata fu interrotta dal ritorno degli uomini di guardia, con sacchi per cappuccio, tutti zuppi di pioggia. Gli ugonotti facevano la guardia a turno per tutta la nottata, armati di schioppi, roncole e forche fienaie, per prevenire le incursioni proditorie del visconte, ormai loro nemico dichiarato. «Padre Ezechiele», dissero quegli ugonotti, «è una notte da lupi. Certo, lo zoppo non verrà. Possiamo ritirarci in casa, padre?» «Non ci sono segni del monco intorno?» chiese Ezechiele. «No, padre, se si eccettua il puzzo di bruciato che lasciano i fulmini. Non è notte per l'orbo, questa. Restate in casa e cambiatevi panni, allora, che la tempesta porti pace allo sfiancato e a noi.» Lo zoppo, il monco, l'orbo, lo sfiancato erano alcuni degli appellativi con cui gli ugonotti indicavano mio zio. Né li sentì mai chiamarlo col suo vero nome. Essi ostentavano in questi discorsi una specie di confidenza col visconte, come se la sapessero lunga su di lui, quasi lui fosse un antico nemico. Si lanciavano tra loro brevi frasi accompagnate da micchi e risatine. Il monco, proprio così, il mezzo sordo, come se tutte le tenebrose follie di Medardo fossero per loro chiare e prevedibili. Stavano così parlando quando nella bufera si udì un pugno battuto alla porta. «Chi bussa con questo tempo?» disse Ezechiele. «Presto, gli sia aperto!» Aprirono e sulla soglia c'era il visconte, ritto sull'unica gamba, avvolto nel nero mantello stillante, col cappello piumato fradicio di pioggia. «Ho legato il mio cavallo nella vostra stalla», disse. «Date ospitalità anche a me, vi prego. La notte è brutta per il viandante.» Tutti guardarono Ezechiele. Io m'ero nascosto sotto il tavolo perché mio zio non scoprisse che frequentavo quella casa nemica. «Sedetevi al fuoco», disse Ezechiele. «L'ospite in questa casa è sempre il benvenuto.» Vicino alla soglia c'era un mucchio di lenzuoli di quelli da stendere sotto gli olivi per raccogliere le olive. Medardo ci si sdraiò e si addormentò. Nel buio gli ugonotti si raccolsero attorno ad Ezechiele. «Padre, l'abbiamo in mano nostra ora, lo zoppo», bisbigliarono. «Dobbiamo lasciarcelo scappare? Dobbiamo permettere che commetta altri delitti contro gli innocenti? Ezechiele, non è giunta l'ora che paghi il fio, lo snaticato?» Il vecchio alzò i pugni contro il soffitto. «Peste e carestia!» gridò. Se si può dir che gridi, chi parla senza emettere quasi suono, ma con tutta la sua forza. «In casa nostra nessun ospite ha mai ricevuto torto. Andrò a montar la guardia io stesso per proteggere il suo sonno.» E con lo schioppo a tracolla si piantò accanto al visconte coricato. L'occhio di Medardo s'aperse. «Che fate lì, mastro Ezechiele?» «Proteggo il vostro sonno, ospite. Molti vi odiano.» «Lo so», disse il visconte. «Non dormo al castello perché temo che i servi mi uccidano nel sonno.» «Neppure in casa mia v'amiamo, mastro Medardo, però stanotte sarete rispettato.» Il visconte stette un poco in silenzio, poi disse: «Ezechiele, voglio convertirmi alla vostra religione.» Il vecchio non disse nulla. «Sono circondato da gente infida», continuò Medardo. «Vorrei disfarmi di tutti loro e chiamare gli ugonotti al castello. Voi, mastro Ezechiele, sarete il mio ministro. Dichiarerò Terralba territorio ugonotto e inizierò la guerra contro i principi cattolici. Voi e i vostri familiari sarete i capi. Siete d'accordo, Ezechiele? Potete convertirmi?» Il vecchio stava ritto immobile, col gran petto traversato dalla banda del fucile. «Troppe cose ho dimenticato della nostra religione», disse, «perché possa osare di convertir qualcuno. Io resterò nelle mie terre, secondo la mia coscienza. Voi nelle vostre, con la vostra.» Il visconte s'alzò sul gomito. «Sapete, Ezechiele, che non ho ancora reso conto all'Inquisizione della presenza d'eretici nel mio territorio? E che le vostre teste mandate in regalo al nostro vescovo mi farebbero tornare subito nelle grazie della curia?» «Le nostre teste sono ancora attaccate ai nostri colli, signore», disse il vecchio. «Ma c'è qualcosa che è ancora più difficile strapparci.» Medardo balzò in piedi e aperse l'uscio. «Dormirò più volentieri sotto quella rovere laggiù che in casa di nemici.» E saltò via sotto la pioggia. Il vecchio chiamò gli altri. «Figli, era scritto che per primo venisse lo zoppo a visitarci. Ora se n'è andato. Il sentiero della nostra casa è sgombro. Non disperate, figli. Forse un giorno passerà un miglior viandante.» Tutti i barbuti ugonotti e le donne inconfiettate chinarono il capo. «E se anche non verrà nessuno», aggiunse la moglie di Ezechiele, «noi resteremo al nostro posto.» In quel momento una folgore squarciò il cielo e il tuono fece tremare le tegole e le pietre delle mura. Tobia gridò: Il fulmine è caduto sulla rovere, ora brucia! Corsero fuori con le lanterne e videro il grande albero carbonizzato per metà, dalla vetta alle radici, e l'altra metà era intatta. Lontano, sotto la pioggia, sentirono gli zoccoli d'un cavallo e a un lampo videro la figura ammantellata del sottile cavaliere. «Tu ci hai salvati, padre!» dissero gli ugonotti. «Grazie, Ezechiele!» Il cielo si schiariva a levante e c'era l'alba. Esaù mi chiamò in disparte. «Di se sono scemi!» mi disse piano. «Guarda io intanto cosa ho fatto!» e mostrò una manciata d'oggetti luccicanti. «Tutte le borchie d'oro della sella gli ho preso, mentre il cavallo era legato nella stalla. Di se sono stati scemi loro a non pensarci!» Questo modo di fare di Esaù non mi garbava, e quello dei suoi parenti mi metteva soggezione. E allora preferivo starmene per conto mio e andare alla marina a raccogliere patelle e a cacciar granchi. Mentre su una punta di scoglio cercavo di stanare un granchiolino, vidi nell'acqua calma sotto di me specchiarsi una lama sopra il mio capo. E dallo spavento caddi in mare. «Tienti qua!» disse mio zio, perché era lui che si era avvicinato alle mie spalle e voleva m'afferrarsi alla sua spada dalla parte della lama. «No, faccio da me!» risposi e m'arrampicai su uno sperone che un braccio d'acqua separava dal resto della scogliera. «Vai per granchi?» disse Medardo. «Io per polpi!» e mi fece vedere la sua preda. Erano grossi polpi bruni e bianchi. Erano tagliati in due con un colpo di spada, ma continuavano a muovere i tentacoli. «Così si potesse dimezzare ogni cosa intera!» disse mio zio coricato bocconi sullo scoglio, carezzando quelle convulse metà di polpo. «Così ognuno potesse uscire dalla sua ottusa e ignorante interezza!» Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse, stupide come l'aria. Credevo di vedere tutto e non era che la scorza. «Semmai tu diventerai metà di te stesso, e te l'auguro, ragazzo, capirai cose al di là della comune intelligenza dei cervelli interi. Avrai perso metà di te e del mondo, ma la metà rimasta sarà mille volte più profonda e preziosa. E tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a tua immagine, perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che è fatto a brani.» Dicevo io, che moltitudine di granchi qui! E fingevo interesse solo alla mia caccia, per tenermi lontano dalla spada di mio zio. Non tornai a riva finché non si fu allontanato coi suoi polpi. Ma l'eco delle sue parole continuava a turbarmi e non trovavo riparo a questa sua furia dimezzatrice. Da qualsiasi parte mi voltassi, Triloni, Pietro Chiodo, gli Ugonotti, i Lebrosi, tutti eravamo sotto il segno dell'uomo dimezzato. Era lui il padrone che servivamo e da cui non riuscivamo a liberarci. Affibbiato alla sella del suo cavallo saltatore, Medardo di Terralba saliva e scendeva di buon'ora per le balze e si sporgeva a valle scrutando con occhio di rapace. Così vide la pastorella Pamela in mezzo a un prato assieme alle sue capre. Il visconte si disse: «Ecco che io, tra i miei acuti sentimenti, non ho nulla che corrisponda a quello che gli interi chiamano amore. E se per loro un sentimento così melenso ha pure tanta importanza, quello che per me potrà corrispondere a esso sarà certo magnifico e terribile.» E decise di innamorarsi di Pamela, che grassottella e scalza, con indosso una semplice vesticciola rosa, se ne stava a bocconi sull'erba, dormicchiando, parlando con le capre e annusando i fiori. Ma i pensieri che egli aveva freddamente formulato non devono trarci in inganno. Alla vista di Pamela, Medardo aveva sentito un indistinto movimento del sangue, qualcosa che da tempo più non provava, ed era corso a quei ragionamenti con una specie di fretta impaurita. Sulla via del ritorno a mezzogiorno, Pamela vide che tutte le margherite dei prati avevano solo la metà dei petali e l'altra metà della raggiera era stata sfogliata. «Ahimè», si disse, «di tutte le ragazze della valle doveva capitare proprio a me.» Aveva capito che il visconte si era innamorato di lei. Colse tutte le mezze margherite, le portò a casa e le mise tra le pagine del libro da messa. Il pomeriggio andò al prato delle monache a pascolare le anatre e a farle nuotare nello stagno. Il prato era cosparso di bianche pastinache, ma anche a questi fiori era toccata la sorte delle margherite, come se parte d'ogni corimbo fosse stata tagliata via con una forbiciata. «Ahimè di me», si disse, «sono proprio io quella che lui vuole.» E raccolse in un mazzo le pastinache dimezzate per infilarle nella cornice dello specchio del comò. Poi non ci pensò più. Si legò la treccia intorno al capo, si tolse la vestina e fece il bagno nel laghetto assieme alle sue anatre. Alla sera, venendo a casa per i prati, c'era pieno di tarassachi detti anche soffioni. E Pamela vide che avevano perduto i piumini da una parte sola, come se qualcuno si fosse steso a terra a soffiarci sopra da una parte o con mezza bocca soltanto. Pamela colse qualcuna di quelle mezze sfere bianche, ci soffiò su e il loro morbido spiumio volò lontano. «Ahimè di me», si disse, «mi vuole proprio. Come andrà a finire?» Il casolare di Pamela era così piccolo che una volta fatte entrare le capre al primo piano e le anatre al pian terreno non ci si stava più. Tutto intorno era circondato da api perché tenevano pure gli alveari e sottoterra c'era pieno di formicai che bastava posare una mano in qualsiasi posto per tirarla su nera e formicolante. Stando così le cose, la mamma di Pamela dormiva nel pagliaio, il babbo dormiva in una botte vuota e Pamela in una maca sospesa tra un fico e un olivo. Sulla soglia Pamela s'arrestò. C'era una farfalla morta. Un'ala e metà del corpo erano stati schiacciati da una pietra. Pamela mandò uno strillo e chiamò il babbo e la mamma. «Chi c'è stato qui?» disse Pamela. «È passato il nostro visconte poco fa», dissero babbo e mamma. «Ha detto che stava rincorrendo una farfalla che l'aveva punto». «Quando mai le farfalle hanno punto qualcuno?» disse Pamela. «Ma anche noi ce lo chiediamo». «La verità è», disse Pamela, «che il visconte si è innamorato di me e dobbiamo essere preparati al peggio». «Non ti montar la testa, non esagerare», risposero i vecchi. Come sempre i vecchi usano rispondere quando non sono i giovani a rispondere loro così. L'indomani, quando giunse alla pietra dove osava sedere pascolando le capre, Pamela lanciò un urlo. Orrendi resti bruttavano la pietra. Erano metà d'un pipistrello e metà d'una medusa, l'una stillante nero sangue e l'altra viscida materia, l'una con l'ala spiegata e l'altra con le molli frange gelatinose. La pastorella capì che era un messaggio. Voleva dire, appuntamento stasera in riva al mare. Pamela si fece coraggio e andò. Sulla riva del mare si sedette sui ciottoli e ascoltava il fruscio dell'onda bianca. E poi uno scalpitio sui ciottoli e Medardo galoppava per la riva. Si fermò, si sfibbiò, scese di sella. «Io, Pamela, ho deciso d'essere innamorato di te», egli le disse. «Ed è per questo?» saltò su lei. «Che straziate tutte le creature della natura?» «Pamela», sospirò il visconte, «nessun altro linguaggio abbiamo per parlarci se non questo. Ogni incontro di due esseri al mondo è uno sbranarsi. Vieni con me. Io ho la conoscenza di questo male e sarei più sicura che con chiunque altro. Perché io faccio del male come tutti lo fanno, ma a differenza degli altri, io ho la mano sicura. E strazierete anche me, come le margherite o le meduse? Io non lo so quel che farò con te. Certo, l'averti mi renderà possibili cose che neppure immagino. Ti porterò nel castello e ti terrò lì, e nessun altro ti vedrà, e avremo giorni e mesi per capire quel che dovremo fare e inventar sempre nuovi modi per stare insieme». Pamela era sdraiata sulla ghiaia e Medardo le s'era inginocchiato vicino. Parlando gesticolava, sfiorandola tutto intorno con la mano, ma senza toccarla. «Ebbene, io devo sapere prima cosa mi farete. E potete ben darmene un assaggio ora, e io deciderò se venire o no al castello». Il visconte lentamente avvicinò alla guancia di Pamela la sua mano sottile e adunca. La mano tremava, e non si capiva se fosse tesa verso una carezza o verso un graffio. Ma non era ancora arrivato a toccarla quando ritrasse la mano d'un tratto e si rizzò. «È al castello che ti voglio», disse issandosi a cavallo. «Vado a preparare la torre dove abiterai. Ti lascio ancora un giorno per pensarci. E poi dovrai esserti decisa». E in così dire spronò via per quelle spiagge. L'indomani Pamela salì come al solito sul gelso per cogliere le more e sentì gemere e starnazzare tra le fronde. Per poco non cascò dallo spavento. A un ramo alto era legato un gallo per le ali e grossi bruchi azzurri e pelosi lo stavano divorando. Un nido di processionarie, cattivi insetti che vivono sui pini, gli era stato posato proprio sulla cresta. Era certo un altro degli orribili messaggi del visconte, e Pamela l'interpretò. «Domani all'alba ci vedremo al bosco». Con la scusa di riempire un sacco di pigne, Pamela salì al bosco, e Medardo sbucò da dietro un tronco, appoggiato alla sua gruccia. «Allora?» chiese a Pamela. «Ti sei decisa a venire al castello?» Pamela era sdraiata sugli aghi di pino. «Decisa a non andarci», disse voltandosi appena. «Se mi volete, venitemi a trovare qui nel bosco. Verrai al castello. La torre dove andrai a abitare è preparata e ne sarai l'unica padrona. Voi volete tenermi lì prigioniera e poi magari farmi bruciare dall'incendio o rodere dai topi. No, no. V'ho detto, sarò vostra se lo volete. Ma qui, sugli aghi di pino, Il visconte s'era accosciato accanto alla testa di lei. Aveva un ago di pino in mano. L'avvicinò al suo collo e glielo passò intorno. Pamela si sentì venire la pelle d'oca, ma stette ferma. Vedeva il viso del visconte chino su di lei, quel profilo che restava profilo anche visto di fronte, e quelle mezze chiostre di denti scoperte in un sorriso a forbice. Edardo strinse l'ago di pino nel pugno e lo spezzò. Si rialzò. «È chiusa nel castello che voglio averti! È chiusa nel castello!» Pamela capì che poteva azzardarsi e muoveva nell'aria i piedi scalzi dicendo «Qui nel bosco non dico di no, al chiuso neanche morta!» «Saprò ben portartici io», disse Medardo, posando la mano sulla spalla del cavallo, che s'era avvicinato come passasse lì per caso. Salì sulla staffa e spronò via per i sentieri della foresta. Quella notte Pamela dormì nella sua amaca, appesa tra l'olivo e il fico. E al mattino, orrore, si trovò una piccola carogna sanguinante in grembo. Era un mezzo scoiattolo tagliato come al solito per il lungo, ma con la fulva coda intatta. «Ahimè, povera me», disse ai genitori, «questo visconte non mi lascia vivere». Il babbo e la mamma si passarono di mano in mano la carogna dello scoiattolo. «Però», disse il babbo, «la coda l'ha lasciata intera. Forse è un buon segno». «Forse sta cominciando a diventare buono», disse la mamma. «Taglia sempre tutto in due», disse il babbo, «ma quel che lo scoiattolo ha di più bello, la coda, lo rispetta». «Questo messaggio forse vuol dire», fece la mamma, «che quanto tu hai di buono e di bello, lui lo rispetterà». Pamela si mise le mani nei capelli. «Cosa devo sentire da voi, padre e madre? Qui c'è qualcosa sotto, il visconte va parlato». «Parlato no», disse il babbo, «ma ci ha fatto dire che vuol venirci a trovare, che si interesserà delle nostre miserie». «Padre, se viene a parlarti, scoperchia gli alveari e mandagli incontro le api». «Figlia, forse Mastro Medardo sta diventando migliore», disse la vecchia. «Madre, se viene a parlarvi, legatelo sul formicaio e lasciatelo lì». Quella notte, il pagliaio dove dormiva la mamma prese fuoco e la botte dove dormiva il babbo si sfasciò. Al mattino i due vecchietti contemplavano i resti del disastro quando apparve il visconte. «Mi dispiace avervi spaventato stanotte», disse, «ma non sapevo come entrare in argomento. Il fatto è che mi piace vostra figlia Pamela e vorrei portarmela al castello. Perciò vi chiedo formalmente di darle mano mia. La sua vita cambierà e anche la vostra». «Si figuri noi se non saremmo contenti, signoria», disse il vecchietto. «Ma lei sapesse mia figlia il carattere che ha. Pensi che ha detto di aizzarle contro le api degli alveari». «Pensi un po', signoria», disse la madre. «Si figuri che ha detto di legarla sul formicaio». Fortuna che Pamela rincasò presto quel giorno. Trovò suo padre e sua madre legati e imbavagliati, uno sull'alveare, l'altra sul formicaio. E fortuna che le api conoscevano il vecchio e le formiche avevano altro da fare che mordere la vecchia. Così poté salvarli tutti e due. «Avete visto com'è diventato buono il visconte?» disse Pamela. Ma i due vecchietti covavano qualcosa. E l'indomani legarono Pamela e la chiusero in casa con le bestie e andarono al castello a dire al visconte che se voleva la loro figlia la mandasse pure a prendere, che loro erano disposti a consegnargliela. Ma Pamela sapeva parlare alle sue bestie. Abbeccate, le anatre la liberarono dai lacci e accornate le capre sfondarono la porta. Pamela corse via, prese con sé la capra e l'anatra preferite e andò a vivere nel bosco. Stava in una grotta nota solo a lei e a un bambino che le portava i cibi e le notizie. Quel bambino ero io. Con Pamela nel bosco era un bel vivere. Le portavo frutta, formaggio e pesci fritti e lei in cambio mi dava qualche tazza di latte della capra e qualche uovo d'anatra. Quando lei si bagnava negli stagni e nei ruscelli, io facevo la guardia perché nessuno la vedesse. Per il bosco passava alle volte mio zio, ma si teneva al largo, pur manifestando la sua presenza nei tristi modi consueti a lui. Alle volte una frana di sassi sfiorava Pamela e le sue bestie, alle volte un tronco di pino a cui lei si appoggiava cedeva, minato alla base da colpi d'accetta. Alle volte una sorgente si scopriva inquinata da resti d'animali uccisi. Mio zio aveva preso andare a caccia con una balestra che gli riusciva a manovrare con l'unico braccio, ma s'era fatto ancor più cupo e sottile, come se nuove pene rodessero quel rimasuglio del suo corpo. Un giorno il dottor Triloni andava per i campi con me, quando il visconte ci venne incontro a cavallo, e quasi lo investì, facendolo cadere. Il cavallo s'era fermato con lo zoccolo sul petto dell'inglese, e mio zio disse: «Mi spieghi lei, dottore? Ho un senso, come se la gamba che non ho fosse stanca per un gran camminare. Cosa può essere questo?» Triloni si confuse e balbettò come era solito, e il visconte spronò via. Ma la domanda doveva aver colpito il dottore, che si mise a rifletterci, reggendosi il capo con le mani. Mai avevo visto in lui tanto interesse per una questione di medicina umana. Manuela Mandracchia ha letto Il Visconte Dimezzato di Italo Calvino, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it